Anarchici sul tetto. Tratto da una discussione aperta con un anarchico ebreo filo-palestinese, insurrezionalista, laico, antifascista. In ordine non alfabetico, quella sera avevo estratto e catalogato dall'intera discussione. 12 anarchico, 13 insurrezionalista, 47 popolo rincoglionito, 53 violenza mediatica, 103 inaccettabile, 4 lotta armata, 33 governo ci ha delusi, 76 fascisti, 7 nazifascisti, 63 comunisti, 42 hasta la vittoria sempre, 3 Cuba, 9 Giamaica, 1 dov'è il bagno, 15 armi di distruzione di massa, 25 filoamericani, 4 tedeschi e una figa rumena all'entrata del locale, 4 Iraq, 4 Iran, 4 ex Unione Sovietica, un governo filoamericano, un governo antiamericano, un governo filo di Scozia, 100 bambini che cuciono i palloni, McDonald's, Nike, proibizionismo, pathos, libertà e un pacchetto di sigarette di importazione cinese. Ero sicuramente al cospetto di un anarchico insurrezionalista non nichilista e per di più amministratore del mio condominio. Io odio gli amministratori di condominio. Sempre a dire cosa è giusto e cosa no, cosa fare, cosa non fare, dove parcheggiare. Ma questa sarebbe stata la sua ultima riunione da dittatore. Contrastato apertamente da noi tre, la frangia ostile del condominio, i combattenti armati della scala BR2. Fare una rivoluzione? Facile. Prima di tutto il gruppo di persone, almeno tre. Un idealista filosofo che esprime il pensiero guida, un combattente armato e cinico capace di far scaturire dalla sua mente ogni tipo di tortura possibile in grado di estorcere informazioni al nemico, e uno che in qualsiasi modo e in qualsiasi momento cerchi di allearsi con gli avversari per fregarti. Secondo problema, trovare qualche idea di repressione e di costrizione sulla guerra agire, tipo prigionieri politici, diritti cancellati, forme di violenza varie, legalizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Terzo, avere poche risorse per affrontare il tutto. Le rivoluzioni devono fallire, altrimenti non sarebbero tali, ma solamente delle vittorie. La rivoluzione deve essere di esempio, il suo fallimento deve esprimere poesia. Avete mai visto un rivoluzionario gioire dei suoi successi? Vorrebbe dire adattarsi allo stato delle cose, e questo non è possibile. Rivoluzionario è anarchico, e quindi deve essere infelice, e insurrezionalista, sempre e comunque. Io, il filosofo, Rob, il combattente armato, Miki, il leccaculo. Ma perché sempre a me la parte del leccaculo? Fece Miki. Non lo so, rispose Rob. Ti esce troppo bene. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Sei un boio, ma partigiano.